Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno. L'indice prevede di parlare della coerenza del Papa e, già che ci siamo, anche quello di Montanelli, di parlare di criminologia, di buone intenzioni e della necessità di essere guardinghi uscendo dal bagno, bagno come metafora.